fatti visti a distanza. Come si vede, Don Vianney penetrava nel mistero spontaneamente, senza alcuno sforzo d'apparato scenico. Al confessionale leggeva nei cuori e in qualunque luogo, in sagrestia, sul pulpito, nella strada, nelle conversazioni più semplici e più indifferenti, come anche all'altare, durante la sua messa, manifestava il suo straordinario potere. La sua intuizione non aveva sempre come oggetto persone o cose di grande importanza, ma qualche volta si limitava agli avvenimenti minimi e si manifestava nel modo più inatteso. «Ah, eccovi finalmente», diceva alla giovane Caterina Bray di Lione, che da qualche tempo gli aveva scritto circa la sua vocazione e che egli vedeva per la prima volta. A Giovanni Battista Metol, cameriere di Monsignor di Segur, che il prelato non chiamava mai col nome di battesimo, Don Vianney fece dono di una piccola statua di San Giovanni Battista, dicendogli: «Prendete, figlio mio, e tenete in memoria di me l'immagine del vostro santo patrono». In piedi, sulla soglia del confessionale, quindi separato dalla navata da uno spesso muro, diceva ad una persona incaricata di mantenere l'ordine nella chiesa: «Chiamate la signora che è inginocchiata sotto il pulpito e che tiene in mano un fazzoletto bianco. Ho qualcosa da dirle». Nel luglio 1859 la giovane Maria Regipà di Lione discendeva per la prima dall'omnibus che si era fermato davanti alla chiesa di Ars, quando vide venirle incontro un giovane che sembrava là ad attenderla e che le disse: «Signorina, il curato desidera parlarle». «A me?» «Sì, ero di guardia in questo momento e il signor curato mi disse: andate all'omnibus e dite alla giovane che discenderà per la prima che l'attendo subito al confessionale». La salute della giovane Regipà era debole, infatti, e non avrebbe potuto fermarsi nel villaggio che poco tempo. Una mattina, durante la messa di Don Vianney, alla balaustra della chiesetta di Arsi si trovava una donna davanti alla quale il curato passò ben due volte senza dare la comunione. «Padre mio», disse ella a bassa voce al terzo passaggio, «non mi avete ancora dato la comunione?» «No, ma stamattina avete preso qualche cosa». Questa donna, ritirandosi, si ricordò di avere mangiato un boccone di pane al mattino durante la levata. Nel 1854 era venuta a Lione la giovane Emy, che aveva un negozio a Chalon-sur-Saône, per chiedere la guarigione di una zia domiciliata a Lione. Alla sua richiesta il santo curato rispondeva con queste parole: «Farete una novena a Santa Filomena e vostra zia sarà presto guarita. Se è così, parto subito per Lione. Ella sarà tanto contenta». «No, dopo la mia messa prendete il battello per Chalon e ritornate presto a casa, perché intanto che siete qui gli affari vanno male». La giovane comprese il significato di queste parole. La persona alla quale aveva affidato il suo piccolo magazzino non si faceva scrupolo di scialacquare. L'ammalata guarì poco tempo dopo. Un giorno una persona di Lione, accompagnata da una fanciulla di 10 anni, si presentava alla sagrestia per farsi benedire oggetti di pietà, ma prima di fare su di essi il segno di croce, Don Vianney mise da parte una medaglia e disse: «Questa non la posso benedire». Si trattava di una medaglia rubata in un magazzino. Giovanni Claudio Viret di Cusanz nel Giura, arrivato un po' in ritardo al catechismo delle ore 11, aveva trovato posto a stento dietro il piccolo pulpito vicino alla sagrestia. Don Vianney non l'aveva visto entrare, quindi ignorava la sua presenza e il luogo ove si era collocato. Siccome la voce del catechista era molto debole, quest'uomo, dopo aver teso l'orecchio un poco per ascoltare, cominciò a sgranare macchinalmente la sua corona del rosario. Ma presto il facoltoso contadino non si servì più delle sue dita che per fare il conto delle sue rendite. Ed ecco che d'un tratto il catechista, alzando il tono della voce, lascia capire anche al contadino distratto queste parole: «Figli miei, si viene in chiesa e si sta davanti al nostro Signore senza badare che si è alla sua presenza, precisamente come quella persona che è alla porta della sagrestia e che sembra recitare il rosario, invece fa il conto delle sue rendite sulle dita. Figli miei, fa tremare il pensiero che non si abbia rispetto per nostro Signore». Al povero Viret, che si sentiva preso di mira, non rimase altro che chinare il capo in guisa di mea culpa. Ogni anno veniva ad Ars per 3 o 4 giorni una pia contadina, la signora Mercier di Bagé-la-Ville nell'Ain, e subito, cosa nota al curato, prendeva posto presso il suo confessionale. In una di queste circostanze, dopo di averla confessata, il curato le domandò: «Quanto tempo vi fermate qui?» «Fin domani, padre.» «No, partite oggi, c'è un serpente nella vostra casa.» La buona donna, che non osava dubitare di una parola del servo di Dio, si affrettò a raggiungere la sua casa. Durante la sua assenza, e senza che ella nulla sapesse, suo marito aveva esposto al sole il pagliericcio del letto, riempito di foglie di grano turco, ma al ritorno ogni cosa era di nuovo al suo posto come prima. Sconcertata e quasi timorosa di uno scherzo, non parlò dell'avvertimento strano avuto dal curato d'Ars, forse anche perché non lo aveva capito. Di che serpente aveva voluto parlare il servo di Dio? Faceva questa considerazione quando scosse il letto e vide allora un grosso rettile passare sul pavimento per uscire sul cortile, ove fu ucciso da persone accorse alle sue grida. Nell'anno 1845 la vedova Berthier della Fouillose nella Loire aveva dovuto collocare suo figlio di 11 anni appena presso un massaro di Saint-Bonnet-le-Soul. Un giorno, mentre il giovane pastore attendeva alla custodia del gregge, un montone fu rapito da un lupo ed in conseguenza di questo il povero fanciullo, picchiato dai suoi padroni, lasciò nascostamente la casa e, non osando ritornare dalla sua famiglia, si allontanò senza rendersi conto del luogo ove sarebbe arrivato. Dopo aver girato un po' di tempo, incontrò una vettura nella quale fu ospitato dal conducente per sentimento di pietà. Durante il viaggio, essendo stanco e sfinito, si addormentò profondamente, ma quando furono giunti a Monceau-les-Mines, fu svegliato dal vetturino, al quale aveva rifiutato di dire il suo luogo di origine, e lasciato nella via. L'aspetto buono del piccolo pastore attirò la simpatia di un caritatevole ed onesto minatore, che acconsentì a prenderlo con sé e lo occupò nella scelta del minerale greggio. Quando la sua povera madre seppe dei fatti di Saint-Bonnet, dopo il primo sfogo di dolore fece delle ricerche per trovare il figlio, ma senza alcun risultato. Dopo 4 anni di inutili richieste, incominciò a pensarlo annegato o divorato dai lupi. Ma non poteva rassegnarsi, ed avendo udito parlare del curato d'Ars, mandò a lui una figlia con l'incarico di domandargli che cosa era successo del ragazzo. Appena l'uomo di Dio intese le prime parole, rispose senza esitazione: «Figlia mia, dite a vostra madre che suo figlio sta bene, è occupato sottoterra con gente onesta, lontano di qui e lontano da voi, ma consolatevi entrambe, il giovane ritornerà in un giorno di festa.» Questa rivelazione straordinaria si avverò letteralmente. 5 o 6 anni dopo, la sera dell'Assunzione, si presentava alla casa della signora Berthier un giovane. Dopo le prime grida e le prime effusioni di tenerezza, la pia madre volle sapere se il figlio era rimasto un buon cristiano. «Sì, mamma, a Monceau-les-Mines ho sempre adempito tutti i miei doveri.» A queste parole la gioia della madre fu al colmo. Ringraziando Dio di una tale fortuna, lo pregò di lasciarla morire. Morì infatti poco tempo dopo. La lettura del pensiero. Ma più profondo e più misterioso di quello materiale è il mondo delle anime. Considerando l'azione che il nostro santo svolgeva al confessionale, già abbiamo visto più volte che col suo sguardo ispirato seppe discernere in mezzo ai pellegrini le persone che avevano bisogno di partire presto o i peccatori sordi agli inviti della grazia e sul punto di fuggire il perdono divino. Ma non abbiamo ancora visto come egli giungesse anche a scoprire il pensiero ed a penetrare le coscienze. La notizia che il curato d'Ars leggeva nei cuori fu accolta con un certo scetticismo, almeno fra le persone colte. Nei primi anni, ci dice la baronessa di Belvey, nonostante quello che avevo sentito dire, non osavo parlargli di una cosa che mi era causa di una pena vivissima. Temevo che non mi avrebbe saputo comprendere e che la sua decisione avrebbe provocato nella mia anima un turbamento penoso che nessun altro sacerdote avrebbe potuto calmare, perché in nessuno avevo tanta confidenza quanto in lui. Riflettendo che non si trattava di una colpa, mi avvicinai al confessionale decisa a non dire nulla e con mia sorpresa il santo rispose al mio pensiero meglio di quello che avrebbe potuto fare una persona a cui avessi esposto dettagliatamente quanto mi angustiava. La prima volta che mi confessai da lui, ebbi la proibizione di fare una confessione generale, ma in seguito constatai spesso che egli era al corrente di tutto ciò che riguardava la mia anima, anche delle grazie che avevo ricevuto in tutta la mia vita. Dapprima si era opposto ad aiutarmi nell'accusa, ma poi cominciò ad interrogarmi sui vari punti da me ignorati o dimenticati, e anche quando non mi ricordavo immediatamente non osavo negare, ben sicura che egli non si ingannava. Altre persone mi dissero che egli aveva letto nelle loro coscienze. «Fatevi religiosa, figlia mia», disse un giorno a Joselina Ballefin, giovane modista di Lagneux, nel dipartimento dell'Ain, e chiuse lo sportello del confessionale. Questa decisione fu la causa di amare lacrime per la penitente che amava il mondo e che per consiglio di un'amica venne a trovare di nuovo il servo di Dio. «Padre, le vostre parole mi hanno messo in uno stato di desolazione e di disperazione. Posso fidarmi di voi? Voi non mi conoscete». «Io non vi conosco, figlia mia. Leggo nella vostra anima come se vi avesse confessato per tutta la vita. Dovete farvi religiosa». E chiuse di nuovo lo sportello del confessionale. Un giorno del 1847 l'architetto di Beaucaire, Ippolito Paget, di 45 anni, si disponeva a confessarsi da Don Vianney, che aveva visto varie volte, allorché ritornò a sentire il rammarico di non essersi fatto a suo tempo prete, rammarico che egli tuttavia non aveva comunicato mai a nessuno. Finita appena l'accusa delle sue colpe, sentì queste parole: «Figlio mio, io conosco i motivi umani che spingevano uno dei vostri parenti a parlarvi del sacerdozio. Se quando vi ho visto la prima volta avessi giudicato che per voi era meglio essere prete, ve lo avrei detto. Uno dei parenti di Ippolito Paget aveva desiderato la sua entrata al seminario per pura vanità». In altra occasione il santo curato diceva al medesimo penitente queste parole: «Vi ringrazio, figlio mio, che tanto spesso avete compassione di me». Il pio architetto, ricordando ogni giorno nelle sue preghiere Don Vianney, diceva: «Signore, usate misericordia a lui e a tutti i miei parenti e benefattori», ed aggiungeva il nome di coloro per i quali pregava. Don Vianney continuava: «Avete ragione di ricordare così a Dio i vostri parenti e benefattori, ma ne ricordate alcuni che hanno meno bisogno di preghiere di altri che dimenticate. Felice l'amico di un padre che ha un figliolo pio». Difatti, questo penitente pregava ogni giorno per il signor Claparède, amico di suo padre. Un professore del Sant'Ireneo di Lione, Don Denavit, era venuto ad Ars non per ammirare l'uomo acclamato dalla moltitudine, ma per prenderlo in fallo. Non si sa per quale motivo non aveva che una fiducia molto limitata nelle decisioni di Don Vianney. Si collocò sulla piazza al passaggio del santo che andava dalla chiesa alla canonica e gli disse: «Signor curato, io sono il direttore del seminario maggiore di Lione e vi sarei riconoscente se voleste darmi alcuni consigli sul modo di adempiere bene la sua missione». Don Vianney, dopo un sorriso misterioso, fissò i suoi occhi scrutatori in quelli del sacerdote che gli stava davanti e, parlando in latino per non essere capito dalla folla che lo circondava, disse: «Declina a malo et fac bonum», e si occupò di altri. Nel 1845 Don de Wartin, curato di Mortagne Nord, interruppe un suo viaggio per fermarsi ad Ars. Non aveva molta fiducia in tutto quello che si diceva di Don Vianney e quando questi doveva passare dalla chiesa alla canonica pensò bene di allontanarsi dalla folla. Si può immaginare l'emozione sua quando l'uomo di Dio, cambiando strada, venne a lui e, posatagli una mano sulla spalla, gli mormorò all'orecchio: «Abbiate fiducia, amico mio». Un ciabattino di Lione, Antonio Sauben, già fervente cristiano, non aveva perduto la fede, che era stata molto viva negli anni della sua gioventù, ma si era dato allo spiritismo. Turbato da insistenti spaventevoli allucinazioni, nel giugno 1859 decise di fare una visita a Don Vianney ed, arrivato ad Ars, riuscì a farsi largo nella navata della chiesa fino a vedere l'altare di Santa Filomena. In quel momento il curato stava davanti a questo altare recitando il suo ufficio, ma non vedeva Antonio Sauben. Il tempo passava ed il nostro spiritista, che aveva poca pazienza e disponeva anche di poco tempo, pensava: se questo prete avesse lo spirito di Dio, come si dice, saprebbe che ho bisogno di parlargli e che non posso attendere. Non aveva ancora finito questo pensiero quando il curato si voltò e disse: «Pazienza, amico mio, vengo subito». Il suo stupore fu grande. Dopo due colloqui con Don Vianney vide scomparire i suoi terrori. Ritornò alla fede della sua fanciullezza e poco dopo vestì l'abito dei trappisti a Nostra Signora delle Nevi col nome di Fratello Gioacchino. Camillo Monnin, notaio a Villefranche, aveva un amico vittima del rispetto umano e lontano da ogni pratica religiosa. Questo disgraziato si trovava un giorno nella folla che circondava Don Vianney, quando il santo, facendosi strada fra la ressa dei pellegrini, andò a lui e affettuosamente gli disse: «Amico mio, è questa testa che bisognerebbe guarire». «In una missione da me fatta», dice il canonico Camelet, «fui colpito dalle religiose disposizioni di un impiegato di ferrovia che mi fece poi il racconto della sua conversione in questi termini. Mi ha convertito il curato d'Ars. Quando arrivai qui, sentii tante volte parlare di questo santo e volli sapere le cose precise non per confessarmi ma per istruirmi. Quando lo vidi, fui così impressionato dall'aspetto di quest'uomo che mi venne subito l'idea di avvicinarlo. Entrato in sagrestia, mi fece inginocchiare al suo confessionale. «Amico mio, è tanto tempo che non vi siete più confessato?» «Sì, padre, è molto tempo, ma non ricordo più». «Esaminatevi bene, è da 28 anni». «Da 28 anni?» «Ah sì, precisamente». «E non vi siete ancora comunicato, voi avete ricevuto solamente l'assoluzione». Anche questo era vero. A tali parole sentii risvegliarsi così fortemente la mia fede che credo proprio di avere fatto una confessione molto seria ed ho promesso a Dio di non abbandonare più la mia religione. Un giorno la baronessa di Belvei, col pretesto di una commissione, mandò da Don Vianney un peccatore ostinato che non metteva piede in chiesa tranne che a Natale e a Pasqua. Forse non si era più confessato dopo la prima comunione. Ad Ars, il servo di Dio gli chiese: «Da quanto tempo non vi siete confessato?» «Oh, da 40 anni». «Da 44», corresse il santo. Quell'uomo prese una matita e, dopo aver fatto una sottrazione sull'intonaco del muro, conchiuse: «Sì, avete ragione». Questo peccatore si convertì e morì poi da buon cristiano. Nel 1851 venne ad Ars Stefanina Vermorel, giovane d'Arcin nella Loire, con l'intenzione di fare la confessione generale di tutta la sua vita ed anche un ritiro spirituale. Cominciò la sua confessione dicendo: «Padre, mi sono esaminata diligentemente». Il santo la lasciò finire la sua accusa e chiese: «Non ricordate più nulla?» «No, padre mio, non ricordo più nulla». «Ebbene, se volete uscire da questo confessionale con l'anima pura come dopo il battesimo, andate a pregare Nostra Signora dei Sette Dolori che vi faccia conoscere quello che vi resta da confessare e ritornate qui». Con tutta semplicità questa giovane si recò alla cappella del Lecce Homo, ove si trovava la statua dell'Addolorata, e si ricordò di tre colpe già lontane alle quali più non aveva pensato. Ritornata al confessionale, il santo insistette: «Avete confessato tutto?» «Io credo, padre». «Ma figlia mia, è quest'ultima colpa che avete dimenticato e che non avete mai detto in confessione?» E, rivelato alla penitente un altro peccato con tutte le sue circostanze di tempo e di luogo, aggiunse ancora: «È vero che non vi siete più ricordata». Difatti la penitente frugava invano nella sua memoria, ma quando passerete nel luogo che vi ho detto ve ne ricorderete. Il santo le diede l'assoluzione, l'assicurò che la sua vocazione era la verginità nel mondo e la congedò pienamente soddisfatta. Quando nel ritorno passò nel luogo ove un giorno aveva offeso Dio, si risvegliarono i suoi ricordi. La sua gioia non fu però turbata perché si sapeva perdonata. «Un uomo di Lione, della cui sincerità non mi restano dubbi», dice Don Toccanier, «mi raccontò che all'età di 15 anni si era confessato al santo, il quale, appena finita l'accusa, gli disse: "Amico mio, non confessate tutto". Aiutatemi dunque, padre, non ricordo altro. E le candele che avete rubato nella sagrestia di Saint Vincent per ornare i vostri altarini? Anche questo era vero. Un uomo del dipartimento della Drôme venne ad Ars per consultare Don Vianney intorno alla malattia della moglie come si farebbe con un medico. Non si mancò di dirgli che non sarebbe riuscito ad avvicinare il santo se non al suo confessionale, ed egli si rassegnò, sia pure senza grande entusiasmo. Questo pellegrino, che sembrava un po' diverso dagli altri, portava cicatrici che lo rendevano leggermente deforme a causa di ferite che aveva ricevuto per strada un giorno in cui era stato coinvolto in un assassinio. Arrestato, aveva anche dovuto subire il carcere preventivo. Con suo immenso stupore, il santo gli ricordò i colpi, il luogo preciso, il carcere preventivo. Comprese allora che non aveva a che fare con un medico dalle cure empiriche, come aveva pensato, e profondamente impressionato dalle rivelazioni avute, chiese di confessarsi e narrò in seguito, senza rossore, la sua strana avventura. Il santo e le comunità religiose. A molte persone Don Vianney aveva consigliato di entrare in religione o di rimanere nel mondo senza che si avesse sempre il segno di una soprannaturale intuizione. A circa 60 giovani ha detto: «Fatevi fratelli delle scuole cristiane e vi opererete molto bene». Fratello Gabriele, fondatore e primo superiore della Congregazione della Sacra Famiglia, ci assicura che il nostro santo aveva grande cura per la sua istituzione e che le procurò circa 40 postulanti. Una ventina poi ne mandò alla trappa, assicurandoli che era quello il loro posto, e ad uno che tremava al pensiero di questo sacrificio egli rivolgeva la domanda: «E gli altri che sono già entrati in convento non hanno anch'essi carne ed ossa?» In queste occasioni la prudenza naturale di Don Vianney, congiunta col suo senso pratico nella direzione delle anime, era sufficiente ad illuminarlo, ma è certo che in altre circostanze egli ebbe sopra alcune anime veri presentimenti da profeta. La sua vita si svolse in un'epoca di fioritura di opere cattoliche. Gli furono rivolte domande circa l'opportunità di molte di queste ed il loro avvenire. Egli fu sempre l'uomo di consiglio ed anche il veggente, di cui il tempo ha poi confermato le previsioni. Il padre Mouard, venuto nel 1848 a consultare il nostro santo prima di fondare il monastero benedettino di Pierre Quivir, riceveva questa risposta: «La vostra è l'opera di Dio e riuscirà certamente. Non dovete lasciarvi arrestare dalle difficoltà». Il padre Chevrier, dopo il Natale del 1856, che egli chiamava l'epoca della sua conversione, rimaneva ancora incerto se dovesse dedicare la sua attività alla fanciullezza abbandonata. Per essere meglio illuminato, fece il pellegrinaggio ad Ars, ove riceveva dal nostro santo questi consigli: «Figlio mio, le vostre ispirazioni vengono dal cielo, incontrerete innumerevoli difficoltà, ma se avrete coraggio e perseveranza, farete abbondante messe di anime». Furono queste le parole che illuminarono il padre Chevrier e lo disposero a perseverare. A Lione, superando penosi ostacoli, fondò la Provvidenza del Prado, che opera un bene immenso. Il curato d'Ars non ebbe mai occasione di vedere Eugenia Smet, che col nome di Madre Maria della Provvidenza fondò l'Istituto delle Ausiliatrici del Purgatorio. Tuttavia, ogni volta che si parlava con lui della pia fondatrice, diceva sempre di conoscerla. Questa giovane, verso il 1850, cioè quando aveva circa 25 anni, ebbe l'ispirazione di organizzare un'associazione di preghiere e di opere buone, il cui frutto si dovesse cedere per intero alle anime del Purgatorio. Si arrestava incerta dell'esito futuro, perché ben sapeva che solamente cuori votati a Dio ed anime morte a se stesse avrebbero potuto aiutarla in questa ardita impresa. Nella sua timidità e sensibilità ben nota, tremava al pensiero di non averne il coraggio sufficiente e domandò il consiglio di Monsignor Chalandon, vescovo di Belley, che le suggerì di ricorrere alla parola ispirata del curato d'Ars. Il santo dettò il suo consiglio a Don Toccanier in questi termini: Da molto tempo attendo un ordine per le anime del purgatorio. Potrà stabilirlo quando crede. Sia religiosa e fondi quest'ordine nuovo che si svilupperà rapidamente nella Chiesa. Ma come provvedere alla mancanza assoluta delle risorse necessarie? E la separazione dolorosa dai parenti che si ostinavano a negare il loro consenso? Non arrestatevi, faceva scrivere il curato Dars. Tutto procederà bene ed anche queste lacrime, che fa versare una tenerezza troppo naturale, saranno presto asciugate. Difatti, il 21 novembre 1855, Eugenia Smith otteneva improvvisamente il consenso di sua madre. Dopo alcune faticose esperienze, dopo tentativi infruttuosi e nuove prove, ancora vivente il curato Dars, le ausiliatrici del purgatorio poterono stabilirsi solidamente a Parigi, per poi estendersi in Francia, nel Belgio, in Austria, in Italia, nell'Estremo Oriente ed in America. Questa famiglia religiosa restò sempre a lui molto cara, forse perché Dio si era servito della sua parola per ottenerle la fondazione e l'incremento. In più, gli archivi d'Ars ci rivelano che una ventina di altre opere, come congregazioni, missioni, confraternite, opere per la gioventù, pellegrinaggi ed orfanotrofi, debbono la loro esistenza e la loro prosperità ai lumi del curato d'Ars. Ai fondatori e superiori diceva: «Abbiate rettitudine d'intenzione e siate umili, non sarete mai ricchi se non facendo assegnamento sulla provvidenza». Fate meno rumore sui giornali e un poco di più alla porticina del tabernacolo. Al contrario, non temeva di disapprovare quelle iniziative che gli sembrassero inutili o destinate a cattiva riuscita. Don Toccanier dice: «Come ogni buon progetto era sicuro della sua approvazione, così ogni iniziativa senza scopo o senza utilità reale veniva da lui disapprovata». Il curato d'Ars ha profetizzato grandi avvenimenti? Ed ora, prima di chiudere il capitolo che tratta delle intuizioni e predizioni del curato d'Ars, viene spontanea una domanda. Il veggente di Ars non ha profetizzato anche grandi avvenimenti che interessassero la Chiesa, la patria, la società, come persecuzioni o guerre? A questa domanda furono già date delle risposte, ed a noi non rimane che citarne una, la quale racchiude anche le impressioni che ci sono derivate dallo studio dei documenti. Nel 1904, quando si preparava la legge di separazione, Giovanni Vianney scriveva queste parole: «Se lui vivente di nulla si parlò maggiormente che delle sue relazioni col demonio, dopo la sua morte di nulla si fece tanto rumore quanto delle sue predizioni, e poiché non si impresta che ai ricchi, gli si attribuì anche qualche profezia che non fece mai. Ancora oggidì non succede un fatto appena notevole che interessi la Chiesa di Francia, sul quale non si insista di avere già la sua parola profetica. E senza menomamente riflettere che la sua stessa memoria viene compromessa da queste imprudenze, gli si attribuiscono con leggerezza detti di assai discutibile autenticità». Durante la guerra del 1914-1918, siccome la lotta si prolungava oltre ogni previsione, si divulgarono di nuovo, sotto il nome del curato d'Ars, delle profezie che sembrarono tosto inventate anche nei particolari, tanto erano precise e di facile applicazione. Soprattutto ebbe grande eco una pretesa profezia che assegnava alle armi francesi una clamorosa vittoria. Ma questa predizione, che fu attribuita a Don Vianney da Fratel Gabin, religioso lazzarista, ed ebbe ampie spiegazioni e delucidazioni, fu modificata in più di 20 modi e non presenta criteri sufficienti di autenticità. Del resto, egli medesimo, da molto tempo, aveva consigliato la massima prudenza a riguardo di pretese profezie. Incessantemente sollecitato a dire il suo pensiero sugli avvenimenti politici, dice la contessa di Garez, Don Vianney non rispondeva mai, e tuttavia si diceva che egli si era pronunciato e si citavano predizioni completamente false. Di questo egli era desolato e si lamentava. Povero curato d'Ars, come lo si fa parlare, lui che non dice mai nulla? E le cose ebbero un tale momento di voga che se ne occupò anche la polizia imperiale, mandando da Lione un commissario per chiedere spiegazioni al sindaco circa una pretesa profezia del curato d'Ars che aveva fatto grande impressione. Da una narrazione del sindaco conosciamo l'epilogo dell'inchiesta. È probabile che tra il santo e il commissario si sia trattato ben altro che di politica, perché dalle lacrime che versava uscendo dalla straordinaria udienza si può concludere che anch'egli si era confessato. Qualche volta il veggente di Ars ha rivelato le sue visioni sui grandi della terra. Il signor Giulio di Mabù dice che trovandosi ad Ars nel 1849 ebbe occasione di parlare con Sanchez Ramón, già ufficiale carlista mandato in esilio, col quale si intrattenne sulla piazza del villaggio. Lo spagnolo non era favorevole a Pio IX, allora rifugiato a Gaeta, che anzi criticava acerbamente, chiamandolo un papa liberale, colpevole di aver ricevuto fin dai primi giorni del suo pontificato le acclamazioni dei rappresentanti della demagogia, e non lo credeva più degno di occupare la cattedra di San Pietro. Giulio di Mabù aggiunge: «Io non condividevo le sue idee e dopo circa un'ora di conversazione lo lasciai». In quel tempo il curato faceva il catechismo in chiesa. Quando nel pomeriggio uscì dalla canonica, il santo vide il gentiluomo e gli indirizzò queste parole: «Amico mio, come sono diverse le vie degli uomini dalle vie di Dio. Stamattina vi si è detto che il Santo Padre, ritornando a Roma, dovrebbe rinunciare al suo posto. Invece vedrete che Pio IX sarà uno dei più grandi pontefici che abbiano mai governato la Chiesa». Lo stesso Giulio di Mabù venne a darsi una seconda volta in quel medesimo anno per avere un consiglio, poiché gli era stato offerto un posto di una certa importanza negli affari pubblici. Il principe Luigi Napoleone, il futuro Napoleone III, aveva in quel tempo decretato la consegna del Pantheon al culto ed incaricava una commissione di preparare la legge sulla libertà di insegnamento, lasciando credere che intendeva stabilire in Francia un governo favorevole ai cattolici. «Io chiesi a Don Vianney», diceva il visitatore, «quale fosse il suo pensiero circa l'offerta che mi si faceva. Mi ascoltò con grande benevolenza, poi fermatosi, abbassò gli occhi, forse per meglio ispirarsi nella luce della riflessione o della preghiera, ed infine, voltandosi verso di me, con tono sicuro disse: «No, no, amico mio, non accettate nessun impiego dal nuovo governo. Luigi Napoleone sarà un giorno nemico della Chiesa». Nel 1856, nota Caterina Lassagne nel suo Petit Memoir, un giorno il curato, davanti a me ed al fratello Gerolamo, parlando, non so per quale coincidenza, della famiglia imperiale e del principe Napoleone che era appena nato, disse: «Ah, sarà buono questo principino, ha una bella testa». Il nostro curato non leggeva mai i giornali e non aveva visto il ritratto del bambino. Se si cercano nei documenti autentici le profezie a lunga scadenza, da avverarsi in tempi più o meno lontani, ne troviamo due ancora. Una ci porta forse sino alla fine del mondo, se è lecito vedere, una profezia nelle parole riferite dalla contessa di Garetz, che dice: «Dopo la sua malattia del 1843, Don Vianney mi confidò che amava molto i gesuiti e che aveva fiducia nella durata della loro società». Un'altra profezia riguarda l'Inghilterra, la nazione protestante che fu un giorno l'isola dei Santi. Il 14 maggio 1854 visitò Don Vianney Monsignor Ulla Thorne, vescovo di Birmingham, che scrive: «Gli parlai della preghiera per l'Inghilterra ed in poche parole gli feci conoscere le prove e le sofferenze a cui sono sottoposti i cattolici per la loro fede. Ad un tratto mi interruppe ed aprì quegli occhi sempre velati quando ascolta o pensa, poi avvolgendomi nella luce del suo sguardo mi disse con tono sicuro e pieno di fiducia, come se facesse un atto di fede: «Ma, Monsignore, io credo che la Chiesa d'Inghilterra ritornerà al suo antico splendore. Sono certo che egli vi crede fermamente, ma non so d'onde gli venga questa convinzione». E riguardo alla sua parrocchia, a questa Ars che non era più Ars, tanto era stata trasformata dalla grazia di Dio, sarebbe vero che il santo curato ha profetizzato un avvenire triste ed oscuro? Emilio Baumann, nel suo libro Trois Villes Saintes, ha scritto queste parole: «Non aveva forse predetto Don Vianney che a un secolo dalla sua morte Ars sarebbe ritornata alle condizioni in cui si trovava all'epoca della sua venuta? Ma fortunatamente questa predizione piena di pessimismo non trova nessun appoggio nella corrispondenza, nei ricordi dei contemporanei e tantomeno nelle testimonianze giurate del processo di canonizzazione. E ci vorrebbe una ingenua e strana buona volontà per dedurre la profezia dai ben diversi termini di un breve ed oscuro passaggio del Petit Mémoire di Caterina Lassagne, ove si legge: nel 1845, il giorno in cui ci annunciò che avrebbe avuto come coadiutore Don Raimond, parroco di Savigny, ci disse: «Ars è come un grande albero. Se si taglia la radice, l'albero cade. Oppure è come una massa di pasta fermentata che si riduce poi a poca cosa». Non abbiamo capito nulla. Nulla induce a credere che il curato con queste parole alludesse allo stato della sua parrocchia e dal suo avvenire religioso. Invece, la data e la circostanza del fatto lasciano credere che egli intendesse parlare della folla dei penitenti dal giorno in cui egli fosse morto. Se Don Raimond avesse ottenuto l'ambita successione nel 1845 o più tardi, Ars si sarebbe ridotta a poca cosa fin da allora, cioè avrebbe perduto molto della sua importanza. Ma il pellegrinaggio avrebbe seguito Don Vianney nella sua nuova dimora. Non si aveva già avuto una prova nel 1843, quando il curato era fuggita da Dilly. Ma siccome il santo rimase al suo posto sino alla fine, nonostante i suoi desideri di solitudine, la radice non fu tagliata e l'albero non cadde. Con una similitudine diremo che al centro d'Ars quest'albero è sempre rigoglioso. Il pellegrinaggio è sopravvissuto a colui che ne era la causa e l'anima, e la parrocchia d'Ars ha conservato fino ad oggi la pratica degli insegnamenti del suo Don Vianney come il testamento di un padre venerato.